per cominciare la forma dell'acqua. Gli ascoltatori sono pregati di prendere posto. La forma dell'acqua, musica e intrattenimento su Radio Città Fujiko. E buongiorno e ben ritrovati alla forma dell'acqua del venerdì, vigilia di weekend e anche ultimo venerdì del mese. Alla mattina sui 103.1 di Radio Città Fujiko prende la forma dello Special Twice con suoni, stili, visioni e con 4 metri in 2 di William Piana e... Iacobucci, Elisa Iacobucci, buongiorno, ben arrivati, ben sintonizzati in questa forma dell'acqua, questo Special Twice, anche oggi doppiamente speciale perché vogliamo ricordare insieme a voi con un po' di lacrimucce, un po' di sorrisi e tanta musica tutto quello che è successo durante questo grandioso anno, anche perché insomma novembre è finito, ormai manca poco e quindi insomma tante sono le cose da fare e allora vogliamo insieme a voi ricordare e fare soprattutto il punto della situazione, quindi fare una specie di scala letta e dire ok, una lista della spesa sarebbe un attimino più concreta, ma noi vogliamo insomma creare i buoni propositi per l'anno prossimo. Noi viviamo un po' tra le nuvole, del resto la nostra statura da giraffe lo consente e allora nonostante manchi un mese, ma non crediate perché un mese vola, un mese in un attimo, schiocco di dita e già siamo verso la fine e quindi calcolare più o meno, rivedere insieme quelli che possono essere i buoni propositi o quelli che sono stati i progetti che abbiamo vissuto e abbiamo realizzato durante quest'annata, oppure approfondire anche con tutto ciò che può essere tempo di playlist, ma non certamente musicale, playlist che sia un po' più personale e anche con varie ed eventuali. Varie ed eventuali, parleremo anche insomma della grande forza di volontà, del grande detto volere e potere, vediamo insomma cosa ne pensate voi, secondo voi è davvero così volere e potere? Bah. Oppure volete anche raccontarci qual è stato il vostro buon proposito dell'anno scorso che siete finalmente riusciti a realizzare quest'anno, e allora mandateci un messaggio al 333 180 9494, oppure scriveteci sulla nostra pagina Facebook Special Twice, dove inizieremo così presto a caricare intanto qualche bella foto. Meno male Elisa che hai qualche bella foto da caricare, perché di solito le porti brutte. No, invece arrivano i complimenti, di solito dopo la trasmissione la nostra bacheca si riempie dicendo wow, quanti like per questa playlist, diciamo non solamente acustica ma anche visiva. Ricordo però per i vostri SMS 333 180 9494, oppure come ha detto giustamente Elisa la pagina Facebook. Allora cara Elisa, la nostra playlist inizia invece in maniera più rilassata, vero? Eh sì, molto rilassata, così sempre con la lacrimuccia perché ricorda il nostro Special Summer. Eh sì, lo Special Summer che iniziò con uno speciale sul Latin Jazz e sulla musica bossa nova, e quindi George Ben, Take It Easy My Brother Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor. A rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my boy. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, my friend. Take it easy, meu irmão de cor. Olha como o céu é azul, olha como é verde o mar, olha que o sol bonito chama. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, my boy. Take it easy, my brother is my friend. Tenha calma, meu amigo. I ritmi caraibici ci riaccompagnano per questo rientro in diretta alle 10.38. Take it easy, my brother Charlie. Insomma, un proposito di calma e relax, e perché no, anche di mondi lontani. Molto lontani, che ci ricordano, insomma, che per fortuna l'estate è durata molto, molto a lungo. Infatti, io e Willy siamo stati felicissimi. Molto. Anche perché di solito si fanno sempre buoni propositi per l'anno che viene, o a settembre, o con l'anno che, insomma, arriva, a gennaio. E siccome quest'estate è stata così lunga per noi, novembre, diciamo che è il settembre, visto che, insomma, questo freddo artico non arrivava, ci siamo un po' giungiolati nel nostro... Allungati. Sì, ci siamo un po' allungati, sì. Esatto. Allora, di più di quello che siamo. Sì. Quindi, insomma, potete immaginare l'autostrada che si è creata. E vabbè, però, insomma, intanto possiamo dire che siamo arrivati a novembre in forza e... con almeno un punto preciso, cioè riuscire a fare una trasmissione insieme, e questo intanto ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo messo nel cassetto. Sì, abbiamo portato questo fieno in cascina e non è male. Partita con lo Special Summer, adesso è arrivato lo Special Twice e aspettiamo anche giugno per rifare lo Special Summer. Vabbè, certo, si spera sempre. Sì, quello sì. Quindi il primo proposito, oppure la conferma, è assolutamente importante, è la nostra presenza, insomma. Sì. E la vostra presenza anche, chiaramente, al venerdì con la forma dell'acqua e lo Special Twice, che prosegue coi nostri gusti personali per quanto riguarda la musica, alla quale dobbiamo essere sempre coerenti e fedeli. Quello sempre, sicuramente, anche capisci? Perché appunto per essere fedeli alle proprie scelte bisogna sempre essere fedeli anche al proprio gusto personale, alla musica che, insomma, contraddistingue questo speciale dello Special Twice. Sì, e allora per tutto ciò tanto groove, tanta musica afroamericana e questa realtà di un cantante, Eddie Jefferson, che metteva insieme alla poca tecnica e alla poca estensione vocale. Pensate un po', dici, beh, Willy, chi ci stai presentando? No, vi sto presentando uno che invece ci metteva tutta l'anima e tutto il cuore. La sua interpretazione in questo caso è di Chameleon, il brano scritto da Herbie Hancock. Lui è Eddie Jefferson, con tanta passione e tanto cuore sostituiva con la voce uno strumento musicale vero e proprio. You and me, come billions all around. I saw my daddy frown. They had big purple eyes. The teeth are long and green. They're burning down our house. They're stealing all our gold. They're gonna rape your mama. Who's gonna save our soul? Come billions all around. 800's getting down. Oh Lord, tell me what do I do now? Help me. Help me, tell me. Oh Lord, tell me what do I do now? Now faster than a dove, beauty and truth and love will fly away and leave a heart of pain and blues. I'd like to party too, but that ain't nothing new. Our minds are almost dead. Better check your head. Oh, how they love to see a grown man when he cry. Now they don't give a damn whether you live or die. The teeth are long and green. They'll wipe you off the scene. Danger is in the air. Strange feelings everywhere. Oh Lord, tell me what do I do now? Help me. Tell me. What do I do now? Hear me. Tell me. Hey, bro, tell me what do I do now? Thank you. get old. A rat will bite your toe. You're full of so much hate. Must be from Watergate. You think you know their book. They've got a brand new look. You thought you saw a rat, but now there goes a bat. Now what else can I say? Chameleons getting down. It honors all around. Chameleons getting down. Tell me, give me. Hey Lord, tell me what do I do? Quando la capacità dell'interpretazione supera di gran lunga la tecnica e la passione della fada padrone all'interno di questa voce, all'interno di queste parole di Eddie Jefferson per un brano che è un classico del funky jazz, The Chameleon degli Headhunters. Cara Elisa, hai fatto ricerche e oggi che giorno è dell'anno? Il numero? Oggi è il 333esimo giorno dell'anno, quindi come 333-180-9494 iniziano ad arrivare i primi messaggi. Allora salutiamo Andrea che ci scrive: This is Radio, the Bologna's ringstone from Will. Oh yeah, Radio Città Fujiko 103.1. You're listening the groove, the real groove from William Piana and Elisa Iacobucci. Sì, mica. Poi parleremo anche in altre lingue. Sì, poi in dialetto. In dialetto, sì, certo. Oppure manderemo direttamente indietro la nostra registrazione in modo da sentire, no, la tua al contrario, in modo da magari creare qualche situazione un po' strana, un po' esoterica. Sì, perché dobbiamo evocare gli spiriti del passato. Esatto. Una volta abbiamo evocato Michael Jackson ed è arrivato. Chi abbiamo oggi da rievocare? Ma ancora adesso... dai, sono le 10:46, aspettiamo ancora un po', perché c'è tempo per rivangare il passato. Io intanto posso dire che quest'anno finalmente sono riuscita a partecipare a un bel concerto, bello grosso, del Jazz Festival, cosa che mi ero promessa di fare l'anno scorso e finalmente sono riuscita. Quindi ti è costato molto lavoro, però sinceramente molto. è stato una bellissima esperienza. Anzi, inizialmente ho detto vabbè, io ero entusiasta, ho detto anche se poi verrò linciata perché magari non capisco niente, io intanto dico che mi è piaciuto tanto. Poi ho visto che tutti erano felici, ho detto vabbè, meno male, dai. Posso esprimere in libertà quello è quello stata che la mi marcia dato. In più, secondo me, del Bologna Jazz Festival. Allora cominciamo a parlare con gli eventi del 2013. Indubbiamente il Bologna Jazz Festival, io ringrazio l'organizzazione, anzi tutta Radio Città Fujiko ringrazia l'organizzazione per l'ospitalità, il calore, l'accoglienza. Di solito io faccio sempre una domanda ben precisa nelle interviste sul jazz: che cosa manca alla scrittura, che cosa manca al sentimento, che cosa manca alla crescita di questa particolare musica di improvvisazione a volte un po' lasciata da parte? E le risposte latitano, le risposte non arrivano mai, ci si inventa qualcosa. Fondamentalmente la risposta che volevo sentire è che manca l'umiltà. Manca l'umiltà perché molte volte viene proposto in maniera altezzosa, viene proposto per allontanare chi è curioso ma invece non ha avuto la possibilità di ascoltarlo fino in quel momento. E invece bisogna andargli incontro. Anzi, bisogna, quest'anno il fatto che magari si sia inserito anche alle scuderie, che insomma una zona universitaria, è stato anche un modo per avvicinare chi non era proprio insomma avvezzo a questa ed è stato importantissima l'atmosfera che si è creata per far piacere a tutti questa musica, un po' come nelle nostre playlist, che non sono esattamente mainstream come si intende, ma che lasciano però intendere anche a un ascolto, diciamo, che speriamo piacevole, pretende esatto, pretende tutto ciò, senza cadere ovviamente nel becero. Lungi da noi fare questo, insomma. E allora, Jazz Festival indubbiamente come evento, ma Jazz Festival anche come proposito che è riuscito a realizzare. E meno male, sì, assolutamente. Concerto dei Bad Plus. Sì, infatti sono andata lì, volevo dire qualcosa, poi mi sono bloccata, io ho detto... Vai, grande, very good. Allora, vabbè. Ho capito. Ho visto l'entusiasmo e questo è quello che conta. Bene, allora anche da casa potete inviare propositi, eventi, notizie, curiosità per questo anno che sta volgendo al termine. Semplicemente scrivere al 333-180-9494 e partecipare allo Special Twice del venerdì. Lo Special Twice che ovviamente ha una colonna sonora variegata, interessante, dilatata in questo caso. Come sono dilatate le sonorità del sax contralto di Grover Washington Jr. e di una voce bellissima che è quella di Bill Withers. Cosa ci fa ascoltare? Just for Two of Us. Rimanete con noi, 103.1. raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. And I, we look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, but not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Washington Junior on sax contralto, veramente molto molto preparato, ma soprattutto molto raffinato. Un volo perfetto, questo è quello che io ritengo ideale per avvicinare tutti quelli che hanno curiosità, sonorità nuove, avvicinare al jazz. Non è solamente difficoltà nell'ascolto, ma è anche tanto tanto piacere. Noi proseguiamo con i nostri principi, con i nostri buoni propositi o anche cattivi propositi. Ce ne scrivono qualcuno? Beh, intanto per legarci al prossimo mio proposito, e cioè fare un viaggio all'estero, perché sono 2 anni che tento e ogni volta devo rimandare, perché c'è sempre una cosa che cade, che dici mannaggia, oh. Ma in realtà, come si sa, se si aspetta il momento perfetto non si farà mai nulla, quindi insomma cogliete la palla al balzo. E salutiamo Fabrizio che ci scrive: ciao belli, un saluto da Birmingham, UK addirittura, yes, in Gran Bretagna, e grazie mille per le vostre splendide trasmissioni. Ascolto sempre Radio Città Fugico e mi sento a casa a Bologna. Che bello! Grazie. Ci fa viaggiare un po' con la fantasia, sì, anche a noi. Intanto buona permanenza a Birmingham e un grande abbraccio da Radio Città Fugico. Grazie per la partecipazione. Beh, speriamo di raggiungerlo presto. Magari. Sarebbe un bel viaggio. Intanto sarebbe, insomma, un'altra tacca da spuntare sulla nostra bella lista di buoni propositi per l'anno che verrà. Al limite io ti posso portare a Minerbio, a Cade Fabio. Non è all'estero, però ci sono cose interessanti. Vabbè, dai, fare un salto a San Marino, visto che siamo vicini, almeno sì. Dico, esatto. No? Si va a fare qualche spesa per risparmiare. Ho valicato la frontiera, vado, esatto, a San Marino. I wanna be the one with you. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. voce invece è quella di Bill Withers, ricordate Ain't No Sunshine? Bene, è proprio sua, del grande Bill Withers. La nostra playlist è una colonna sonora di volere o potere, buona volontà o cattiva volontà. Beh, indubbiamente volere e potere lascia adito a mille interpretazioni, chiaramente ci vuole la buona volontà, però buona anche fortuna, oltre che buona volontà. Soprattutto tanta fortuna. E poi sì, insomma, diciamo che siamo ormai arrivati a un livello di individualismo proprio ai massimi livelli, nel senso che tutti, no, pensiamo che se io voglio posso fare, perché tutto dipende da me, perché io sono una persona indipendente. Io, quante volte hai detto io? Io, esatto, e questo è il problema. Invece in realtà siamo persone che dipendono, e che dipendenza e che abbiamo, esatto, da qualsiasi cosa, da chiunque, e siamo tutti interconnessi, quindi insomma bisogna anche capire che quello di cui ho bisogno magari me lo puoi dare tu, come me lo può dare qualcun altro, e insieme, coinvolgendo le azioni, si può scaturire chissà quale altra reazione a catena. E quindi sì, come dare più attenzione all'arte, perché mi hai raccontato un episodio che mi ha un po' sconvolto. Sì, infatti volevo appunto, stavo per postare una famosa immagine di Vansky che a New York ha allestito una bancarella vendendo le sue opere a $10. Ovviamente le persone passando, uno, non hanno riconosciuto, secondo, pensavano insomma non fossero originali, magari delle copie. Però qualcuno, sai, passando di lì ha detto: ah, carina, la compro, dai, $10. In realtà se la porta a casa un'opera da milioni di euro, insomma. Aia. E infatti solamente il giorno successivo hanno saputo sul giornale il loro acquisto, quanto invece in realtà valeva. E questo in realtà ha voluto dare uno schiaffo in faccia un po' all'arte della serie. In realtà, insomma, c'è chi decide quanto vale un'opera, ma è molto soggettivo, insomma, l'arte viene riconosciuta da noi, quindi altro che individualismo in questo caso. Caso ci vuole tanta umiltà. Il prossimo è un mio buono proposito. Buono sconto, centro commerciale Andrea Costa. Un mio buono proposito. Questo è un neologismo, non voglio parlare italiano. Uno mio buono proposito sarebbe quello di essere meno pantofolaio e uscire un po' di più, non restare sempre così a fare delle playlist o a leggere dei libri dentro il salone che è monitorato 24 ore su 24 da Elisa, e così finalmente riuscire a lasciarla a bocca asciutta e andare a fare qualche giro, uscire, passare un po' la notte, insomma, anche fuori, non semplicemente così, da pantofolaio. A tale proposito, prima della pubblicità, Gimme the Night di George Benson, a fra poco. Just give me the night. Give me the night. Insomma, era poco tempo fa che eravamo ancora in spiaggia e guarda un po', è già arrivata anche la fine di novembre, cosa volete che manchi alla fine dell'anno? E quindi noi abbiamo capito che oltre a un desiderio solare che accomuna me e Elisa, c'è anche una grande voglia di viaggiare con questo rientro. Sì, perché? Diciamo che mi hai beccata. Che qui, insomma, ho preso due piccioni con una fava e ho messo insieme un po' di voglia di tornare in posti caldi con una musica che non può non trascinarti e portarti in quei posti mangiati. magnifici. Vogliamo dire che Lalo Schifrin, direttore d'orchestra, compositore, ricordiamo le sue bellissime opere anche a livello di colonne sonore, argentino questa volta, non brasiliano. Sì. Ha fatto anche la colonna sonora di Mission Impossible, sì, che sì, ricordiamo solo per la colonna sonora, perché, sì, perché come tu ben ricordi, un anche flop quando abbiamo... incredibile. Questo per me sono composizioni di un grandissimo gusto, mi ricordano anche tantissimo certi B-movie. Oh sì, sono con un gusto infinito, la capacità evocativa di riportare immagini, e portare anche parole al 333-180-9494. Eh sì, ricordo anche che siamo su WhatsApp, perché insomma arrivano messaggi anche dall'estero, quindi se avete insomma problemi di ricezione di questo tipo, se mettete il nostro numero vi compare su WhatsApp, potete comunicare tranquillamente con noi e dirci qual è stato il vostro buon proposito dell'anno scorso che siete riusciti a concretizzare quest'anno, oppure qual è quello per l'anno prossimo. Esatto. E vi ricordiamo che più sono realizzabili, più insomma aumenterà anche la vostra autostima, perché è inutile insomma fare buoni propositi. Io sono la prima della dieta del lunedì mai iniziata, o della corsa del giovedì mai iniziata anche quella. Invece magari appunto ponendosi dei traguardi un po' più realizzabili, se poi si riescono a concretizzare, insomma tutto di guadagnato. E se li scrivete o ce li dite al 333-180-9494 è più facile che si realizzino, vero? Porta bene. Porta bene, esatto, anche perché nel momento in cui tu lo comunichi è come se ormai l'hai detto, dopo non sei più una persona seria se non lo rispetti, no? Invece se tu lo dici diventa concreto, realizzabile, quindi fatevi avanti e dichiarate. Dichiaratevi. Manifestatevi. Esatto, fate l'outing del buon proposito. Il coming out del buon proposito. Eh sì, assolutamente. Allora, torniamo al passato, a un passato molto molto prossimo, molto vicino, visto che abbiamo voluto parlare anche di noi, Elisa con la radio e William con il fumo. Infatti guarda, sei stato bravissimo, hai smesso di fumare da un giorno all'altro, magicamente scomparso qualsiasi tipo di... Mi sento in colpa con me stesso. Addirittura? Sì. No, mi sento... Dici, perché non ho iniziato prima? No. Perché spesso, è vero, spesso pensiamo di non potercela fare, per quello a volte neanche iniziamo. Magari anch'io voglio smettere di fumare, dico vabbè, ma tanto dai, me ne tengo quelle due buone, tanto non ce la faccio a smettere. E invece magari se ci proviamo davvero ci accorgiamo che come per magia tutto è andata così, è andata bene, vero? Mi sono stufato, però io dico sempre, per non portarmi sfortuna, che ho solo interrotto. Per adesso ho interrotto, speriamo che questa interruzione duri il più a lungo possibile. Beh, però deve durare più a lungo possibile anche la buonissima musica. Un pezzo fuori playlist che ho deciso di inserire non di tanto tempo fa. Lui è un cantante, si chiama Patrice, ed è l'ideale per questa giornata in cui il sole sta facendo capolino, nonostante che le temperature, ahi noi, stanno sempre di più crollando. Allora, un buon proposito, sempre sole anche in inverno, con Sunshine di Patrice. Questo è un desiderio continuo di sole, viaggiare e sole, questo sì. L'abbiamo capito. Ma infatti mi sa che se ci fosse Freud qui di fianco mi guarderebbe, scuoterebbe la testa e direbbe sì vabbè, ma non ci siamo proprio. Tu qui cosa vedi? Una spiaggia. Tu qui cosa vedi? Cosa vedi? Esatto. Un ombrellone. Abbiamo parlato delle macchie. Delle macchie, esatto. Cosa ci vedi qui? Sole, palla, divertimento, ombrellone, onde. Frittura di pesce. Ah, oh, non. Anzi, guarda, sono le 11:20 quasi. È vero, sei già da addentamento microfono. Ma infatti. Non hai voluto far merenda con me. Vabbè, ma stamattina, guarda, me la sono voluta mantenere perché ho detto buoni propositi, iniziare no, a mangiare cose un po' più sane. Insomma, mi raccomando. Vabbè, questo è quello che si promette. L'importante, io penso, poi alla fine, è non essere troppo severi nei bilanci. Esatto. Io non amo molto fare bilanci, perché di solito sono sempre, essendo noi molto severi con noi stessi, deludenti. Ma infatti deludenti, è proprio deludenti. Un po' come tutti quei programmi di cucina che vanno di moda adesso. Infatti uno dei miei buoni propositi è capire come mai stanno spopolando tutti questi grandi master chef, no? Tutte queste... Esatto, e tu no. Ma come... No, ma in realtà è perché la gente c'ha fame, ha voglia, è golosa. E quindi è chiaro che se tu mi metti davanti un bel piatto di pasta o un bel dolce, io faccio fatica, no? A trattenermi. Quindi poi è tutta una catena. Come faccio il lunedì a iniziare una dieta sana e bella, buona, non golosa, quando in realtà dove ci giriamo siamo circondati da cibo, immagini pubblicitarie di cibo. Insomma, anche qui la forza di volontà, volere potere. Ma bisogna anche dire che io, vabbè, sono una persona razionale, però ci sono parti di noi che proprio non sono più forti della nostra razionalità. Siamo, cioè, carnali. Siamo carnali, esatto. Nel senso che si piacciono le fiorentine. Esatto. E la carne sia a livello proprio di, sì, di consumo, di sostanza. Sì, sì. Anche se invece il mio buon proposito è proprio diminuire drasticamente la carne. Spero di riuscirci, insomma. Già sono sulla buona strada. Esatto, e proprio qui ti volevo portare, perché uno dei miei propositi è quello di diminuirla quasi del tutto, sia per motivi fisici che soprattutto per motivi anche etici. Sappiamo come viene gestita, non tanto la carne, già la carne in sé, insomma, di principio non riusciamo a digerirla. In più, se pensiamo a tutte le cose che ci mettono dentro, insomma, dovrebbe passare la voglia. Sì, assolutamente. Ascolta, cara Elisa, ti voglio dire una cosa importante. Secondo te, nella nostra playlist adesso di cosa parla il prossimo brano? Argomento nuovo. Un argomento nuovo che potrebbe essere qualcosa di solare. Il sole. Cosi Bisa, Sunshine Day, questo brano da apridisco, questo brano molto anni 70, tipicamente come si diceva fricchettone. Fricchettone, infatti è stato un gruppo britannico formato da 3 africani e 4 caraibici, è stato il primo gruppo afro rock, diciamo. Afrobeat, afro rock. Sì, e che ha avuto appunto proprio degli africani così famosi in tutto il mondo, è stato proprio il primo gruppo di rappresentanza dell'Africa. Infatti, e che buon proposito. Un buon proposito, assolutamente. Sì. Mica come quelli di Fabio Volo. Ma infatti, guarda, innanzitutto volevo un attimo leggere un paio di messaggi che sono arrivati. Volevo salutare Maria Grazia dalla Svizzera, che ormai non può più fare a meno di ascoltarci. Ma siamo internazionali. Ci fa piacere. Svizzera, Birmingham. Ma infatti, cioè, guarda, Cosi Bisa che ci scrive. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ma quanto siete groove. E poi, vabbè, mi scuso per, insomma, se vi ho violentato con immagini di cibo e di dolci in questa mezza mattinata. Infatti Andrea ci ha riscritto: ma questa è pornografia alimentare. Sì, è la pornografia che preferiamo, secondo beh, assolutamente, me, quella... Ma infatti, però, insomma, meglio violentare le persone a livello così di cibo che a livello culturale. Infatti volevamo avvisare, insomma, i nostri ascoltatori nel caso, insomma, ancora non avessero avuto sotto mano questa informazione, ma hanno dato la laurea ad honorem a Fabio Volo, che insomma non sa se accettare, ma ovviamente ringrazia. E allora noi, insomma, invece di dire come buon proposito riprendiamoci la cultura e diamo valore, insomma, questo non è, non, insomma, dai, non la regaliamo, non proprio regaliamo. Così non la regaliamo. Un buon proposito è scegliere meglio i libri per Natale. Esatto. Infatti non ce l'ho con Fabio Volo, no, assolutamente, guai. Però insomma almeno io so che è una persona abbastanza umile e dice: vabbè, io sono quello che sono, non è che mi credo di essere, insomma, sto Tolstoy. Nobel per la letteratura. Però insomma, a tutto c'è un limite. A tutto c'è un limite, diciamo. Diciamolo. Insomma, can you feel it? Can you feel it? Let it groove it. We'll be right back. Questo è il suono di Detroit, il suono dello Special Twice, rientrando in diretta per questo venerdì 29 novembre e parte la rubrica dell'evocazione dell'ospite, cara Elisa. E chi abbiamo oggi? Oggi abbiamo un ospite molto importante ai nostri microfoni, si sta già palesando probabilmente. Ma vabbè, insomma, è partita la ruota del disco, vedi? Vabbè, senza volere, senza volerlo siamo riusciti. Vabbè, ma insomma, questo è la rappresentazione del pepe, ci vuole il sale e il pepe della vita soprattutto. Sì. E lui ne sapeva molto, secondo me. Sì, ma infatti, ritornando alla pornografia culinaria, ci spostiamo sempre su quel lato un po' più, diciamo, legato alla vera etimologia della parola. Proprio pornografia e rappresentazione di scene ludiche, insomma. Ah, beh, sì. Ah, no, ok, pensavo caso volessi fare un collegamento un po' strano. No, un collegamento regolarissimo. Ah, ok, secondo me. Perfetto. Sì, anzi, mi sono legato ai classici, l'etimologia della parola, mentre invece si sta parlando di carnacci. diciamolo. No. Vabbè, ma insomma, io intanto mi preparo sulla pagina Facebook dello Special Twice, lo ricordo, perché insomma c'è una chicca speciale di William, sì, e il soggetto in questione intervistato, che era qui con noi, quindi la foto con l'artista bisognava farla. Sì, assolutamente. Assolutamente. E poi è importante anche ricordare il suo ultimo lavoro, che si chiamava Midnight Love, l'abbiamo intervistato a proposito, dopo ci ha lasciato. Magari vi facciamo in differita le dichiarazioni che ha lasciato il grandissimo Marvin Gaye. Dal suo ultimo disco, è il 1982, dopo poi è partito per altri lidi, o almeno l'han costretto a partire per altri lidi, da Midnight Love, a proposito di Pepe, Sexual Healing. Rising and rising, and when I get that feeling, I won't say. Sì, Marvin ha detto che questo è stato il suo ultimo lavoro del 1982 e anche l'unico per CBS Columbia. Lascia la Motown e ha una nuova possibilità di lavoro, di rilanciarsi. Scrive Midnight Love, lo fa esattamente in 3 giorni, ci ha detto. Sì. E ha imparato in così poco tempo anche ad usare la drum machine, che era, diciamo, la novità per quanto riguarda le percussioni negli anni 80. E nonostante la caratteristica tipica di quegli anni algidi, bui, che io definisco lo sterco del demonio, lui riesce alla drum machine a dare un'anima, a dargli il soul. Lo impara unicamente e subito in 3 giorni e farà delle scritture in questo Midnight Love estremamente interessanti. Sarà il suo ultimo disco, sarà un successo, diciamo così, molto limitato perché i tempi stanno cambiando, però insomma è un bell'ultimo messaggio che ci ha lasciato. Eh sì, e se qualcuno vuole fare una domanda in diretta, purtroppo non è più disponibile, no. Perché quando gli abbiamo chiesto di Tammy Terrell è uscito scappato in lacrime, quindi purtroppo non possiamo più andarla a riprendere, però no. Insomma è stato un onore averlo qui con noi. E ci sarà l'angolo dell'evocazione, la rubrica dell'evocazione ogni volta, perché voi non sapete, ma Elisa ha anche capacità di medium. Ah sì sì, adesso diventerò con la mia bella palla di cristallo, vi dirò quale sarà il mio prossimo buon proposito dell'anno, anche perché si sa che la vita è fatta di scelte, di rinunce e di sacrifici, però io vorrei scegliere di rinunciare ai sacrifici, va bene lo stesso? Bella questa cosa, sì, cioè, è un po' furbetta questa, è un po' maga. Furbetta, va bene, allora il mio buon proposito è farmi la furbetta. No? Difficile. Intanto salutiamo Marcello. Ah, salutiamo Marcello e salutiamo anche tutti gli altri che ci stanno seguendo tramite la pagina Facebook, Lorena Merzani, Andrea Palomba e anche Massimiliano Giaracca e Zagor lo Spirito, come sempre, che chiude il cerchio. E Charlie Marchesini. Ma Charlie Marchesini, mi stupisco che oggi non sia di nostro supporto, insomma, ormai era diventata la nostra mascotte, invece guarda. E invece ha rifiutato questa possibilità. Ricordo, e non so se ricordi anche tu, tornando al grande Marvin al quale stiamo giustamente dedicando un ampio spazio, del videoclip. E il videoclip di Sexual Healing. Ah beh, bellissimo. Te lo ricordi? C'è lui che si sente male, deve andare al pronto soccorso e gli capita questa infermiera, che è una cosa strepitosa. Sì, infatti fa un po' strano, insomma, in base insomma questo pezzo, no? Ti immagini una cosa un po' diversa. Infatti invece lui va al pronto soccorso, gli capita questa infermiera che per provargli la pressione piegarsi. E lui sì, diciamo che è un attimo di svarione. Gli va a 2000, gli va la pressione. Beh, anche molto ironico sicuramente, del resto sono stati gli anni che hanno sdoganato non certo il buon gusto, e quindi vabbè. Accettiamo anche questo. Musica però sicuramente di grande qualità per quanto riguarda Marvin Gaye. Alle 11.45 la nostra playlist prosegue, come proseguono i nostri buoni propositi, come proseguono anche tante altre playlist non solo musicali, ad esempio, così, solo per informazione, secondo me, libro del 2013, Telegraph Avenue di Michael Chabon da Einaudi. Ah, oh, vedi? Anche per questo me è quello. Allora, diamo la laurea ad onore, ma anche a William, perché voglio dire, a questo punto... No? Sì, ho letto un libro, no, non è vero, falso. No, so che sei un gran lettore, anzi, il mio buon proposito, visto che quest'anno non ne ho letti tanti, perché l'ultimo risale ad agosto-settembre. Vorrei... 72? No, di estiva, cioè diciamo una lettura estiva, settembrina. Ci sta, però te insomma... Sì, era di Herman S, Damian, mi mancava, e allora ho detto vabbè dai, certo, e l'altro classico. Era sulla Blue Note, non so quanto valga però. No, come non sai quanto valga? No, non valga come lettura, no, proprio. No, vale. Secondo non me era un sì. Romanzo, ovviamente, insomma, però di grande interesse musicale, questo assolutamente. E io invece voglio essere meno spietato per quanto riguarda l'espressione dei miei gusti. Prima mi sono lasciato andare, oh mamma mia che brutti gli anni 80, qua e là, quanta brutte cose che ho sputato su quella decade. Beh, non è stato poi tutto così brutto. Sentite un po'. Jackson, il disco è Night and Day, questo è il suo più grande successo, Stepping Out. Artista particolarissimo, grande pianista, grande compositore, all'avanguardia, non disprezzava neanche un look tipicamente anni 80, ma lo portava in scena decisamente con grande particolarità e originalità. Ricordiamo tanti altri brani e tanti altri dischi, è tuttora, guarda caso, sulla cresta dell'onda e pensate un po', scrive tanto jazz in trio, quindi speriamo tanti altri anni di carriera per lui. Il buon proposito è tanti altri dischi, tanti e non solo di musica, abbiamo parlato a livello anche di colonne sonore, quindi anche mi leggo così al cinema, perché oggi ricade la ricorrenza della morte di Monicelli, che insomma ci ha lasciato pochi anni fa, era il 2010, sempre insomma del 29 novembre, e lo voglio ricordare con insomma uno dei suoi grandi classici, che può essere L'armata Brancaleone. Bellissimo, che ha divertito tantissimo, assoluto. Sì, Amici miei, Guardie e ladri, insomma un artista di grandissimo talento. E il buono proposito è il buono proposito, sì, ormai è diventato, dopo la ruota del disco abbiamo il buono proposito dell'anno prossimo sarà andare un po' di più al cinema, però insomma bisogna anche stuzzicare la voglia di andare al cinema, perché a volte ti passa, perché insomma sempre le solite cose, e invece in realtà c'è il nuovo film di Piff che mi interessa, e penso sì, che andrò a vederlo. Sei tu la appassionata di cinema della coppia? Io non dico che non sono appassionato, perché non è vero, no, però... ma in realtà secondo me siamo sullo stesso livello, abbiamo entrambi una passione che non è sfrenata, ma è sicuramente dedita. Ho dato la precedenza ad altre cose. Ciò non toglie che, per carità, anzi, ogni volta che ho la possibilità, io sono classico spettatore che piange ai titoli d'inizio. Ah, addirittura. No, io so già che mi commuoverò in quel film e mi metto avanti con i lavori. Con i lavori, quindi fazzoletti. Sì, non so perché, è un ambiente che mi emoziona, indipendentemente da cosa ci sarà in proiezione, però è qualcosa così, mi prende il cuore, figurati a vedere film come The Artist, come Wall-E, dove faccio Kleenex, mar di lacrime, hai voglia, incredibilmente proprio, ma anche film, diciamo così, che non sono proprio legati al sentimento, quando c'è quel momentino, tacete, si aprono le catarata. Ma guarda un po' che, come si dice a Bologna, io sono di Picaglia tenera. Ah, che non, vedi? Ho capito perché si dice così. No, non lo so, non lo so. Però è un uomo di Picaglia tenera, cioè. Ma che Picaglia sarebbe? Non lo so, lo guardiamo, ecco, su internet. Allora adesso mi metto al lavoro subito. Le lo diciamo solo se non è una cosa sconcia. Beh, ovviamente. Sì, sì, oppure se lo sapete voi ditecelo. Voi, esatto, mandateci un messaggio prima? Esatto, al 333-180-9494, così almeno ci portiamo avanti con i lavori. Sì, E allora, visto che abbiamo parlato di cinema, Elisa ha fatto una playlist che veramente ha un succedersi di arte e di eventi veramente azzeccata per questa puntata dello Special Twice. Adesso cosa ci ascoltiamo, cara Elisa? Ci sentiamo il Little Green Bag. Allora godetevela tutta. A dopo. Abbiamo la Picaglia. La Picaglia, la Picaglia dice si Picaglia il fermaglio, quindi diciamo che sei di facile Picaglia, perché il tuo fermaglio, insomma, è di facile non regge. È un po' scarso, un po' scarso. Infatti io volevo dirlo, però dico magari. Però strano, visto che hai i vasi occlusi. È una scusa per me, capito? Beh, ho il canale lacrimale. Me l'ha detto l'ottico di fare questa cosa. A proposito, grazie per il panno degli occhiali. Ah, prego, visto che insomma ormai non ti vedevo più, dicevo, ma cosa vorrà dirmi, non ti vedo, dove sei Willy, puliti gli occhiali. te un regalo prezioso e importante. Prossimo principio o prossimo buono proposito: essere più generosi. Essere più generosi, assolutamente. Almeno, insomma, proviamoci. È un punto di inizio. E salutiamo anche Massimiliano Giaraca che ci scrive dicendo: io al cinema piango sempre quando mi si siedono vicino a sgranocchiare rumorosamente e a cercare con gli schermi dei cellulari. Quindi non è un caso di commozione, è un caso più di nervoso. Non ti posso picchiare, quindi piango. Sono disperato. E poi ringrazia Massimiliano che non ci sediamo davanti a te al cinema. Esatto. Se no non piangi per niente. Ma guarda che io una volta a un concerto ho avuto, insomma, la sciagurata idea di salire sulle spalle di un'altra persona alta già 2 metri. Quindi immagina la colonna umana che abbiamo creato. Però volevo fare una foto, cioè era una questione di un minuto neanche. Insomma, non immagini cosa ci hanno detto. Le perché... cartacce che avevano tirato sulla schiena. Sì, perché insomma già avevano davanti una persona alta 2 metri. In più io mi sono messa sulle sue spalle e finita. The Wall, esatto, della serie. Ma come vi permettete anche solo a pensarlo? Come vi permettete a essere così alti? Esatto. Sì, vabbè, allora, buoni propositi, essere più bassi l'anno prossimo. Sì, Willy, sì, togliamoci sì. un paio di centimetri. Sì, te tacchi zero. Basta. Zero, basta, va bene. Io giro gobbo, così siamo a posto. 11:59 minuti, aiuto la pubblicità. Prima un brano musicale, abbiamo detto più attenzione agli anni 80. Pensa cosa mi fai dire, più attenzione agli anni 80, come se non ce ne fosse già abbastanza. Breath of Sprout, a più tardi. Appetite. of the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room, the robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Abbiamo scoperto che tu, Elisa, sei una tarantiniana. Una tarantiniana. Eh sì, o una tarantolata. O una tarantola, una direttamente. No, dalla foto non si direbbe tutt'altro. Sei una tarantiniana e come? Perché questa, tra l'altro, era all'interno della colonna sonora di Pulp Fiction. Giusto. Era infatti il... non sarà questa nota pubblicità, il noto marchio che utilizza questa canzone, no, a farla diminuire di valore. Assolutamente, è stata parte del famoso e scatenato twist tra John Travolta e Uma Thurman. Ah, famosissimo balletto scatenato. Sì, quello che si passavano. Dopo tutti ballavano così, con, esatto, la punta davanti agli occhi. Sì, sì, sì. Ma cosa ballate? Perché hanno visto il film e io dicevo, bah, che strano. Comunque, ovviamente la moda e la passione e l'identificarsi con personaggi famosi non risparmia nessuno. No. Meno male che ci ha scritto Elio e noi sì, lo leggiamo tutto perché il rigoroso silenzio. Sì, sì. Allora, intanto complimenti per la splendida selezione di stamattina e intanto ti ringraziamo. Grazie. E poi ci scrive, a proposito di buoni propositi, ne ho diversi in serbo, ma di sicuro per il nuovo anno non abbandonerò quello di ritornare genuino e verace, nonostante questi nostri tempi sbandati in cui troppo spesso restare veri risulta tanto difficile, è molto più semplice invece risulta essere vittime di una omologazione spietata e fatua che inesorabilmente uccide emozioni ed idee. Convintissimo di ciò che vi dico, vi abbraccio virtualmente. Grazie Elio. E potremmo andare avanti all'infinito. Sì. Gli SMS lo commentiamo in questo modo. Intanto grazie a tutti quelli che hanno partecipato allo Special Twice per questo ultimo appuntamento novembrino. Mese particolare poi novembre con la sua estate di San Martino, però non può purtroppo durare sempre e infatti le temperature sono crollate. Si mormora già di un inverno tremendo, di un inverno incredibilmente. Però diciamolo che ogni anno è l'anno più freddo degli ultimi 150 anni, quindi insomma saremo a vedere. Sai cosa fatto io ogni tanto per ricordarmi che c'è speranza? Quest'estate, in pieno luglio, uscito dalla radio sono entrato in macchina, io ho una vettura nera, quindi attira i raggi del sole, accendo il cruscotto e leggo 43 gradi, bellissimo. Bellissimo. Lo fotografo, me lo metto come sfondo e dico, torneranno. Quindi è questa il buon proposito. Il buono proposito, della temperatura potrebbe essere questo. Mentre invece i nostri buoni propositi sono anche quelli di mantenervi compagnia per tutto l'anno con la buona musica e le nostre selezioni di William Piana e Elisa Iacobucci. Angolo delle Marchette, questa sera alle 19, via Saragozza 81, per un contest non solo musicale ma anche enologico, si può dire, a proposito di vini. È il termine giusto? Sì, sì, sì. Enologico. Allora, tra i vini della regione Veneto e i vini della regione Sicilia, tutte e due regioni con quanto lontane ma così vicine per il buon gusto, mettono insieme alcune selezioni vinicole e saranno assaggiate dai clienti della Caffetteria 81 in via Saragozza, ovviamente 81. Questo è l'angolino che noi dobbiamo sempre rispettare. Beh, ovviamente ricordiamo, anche perché insomma il vino fa buon sangue, quindi quando lo metti insieme alla musica è tutto un dire. Anche qui due piccioni con una fava. Madonna, oggi ho sterminato la piccionaia intera. Fatto giù uno stormo. Mamma mia. Sai che non mi ricordo neanche più il brano che ho programmato per la selezione successiva. Ma allora facciamo una ruota del disco. Facciamo una ruota del disco. Dai. Aspetta, chissà cosa salta fuori, mi raccomando, state sui 103.1, È andata bene, Style Council, wow. Head Start for Happiness. And you Tyler Mike Talbot e in questo caso DC Lee alla voce. Devo ammetterlo, io sono un grande fan degli Style Council. Beh, però insomma, non è certo un demerito. Vabbè, assolutamente no. Ascolta, ma non si scrive mai Wicista Mirabilis? Ma infatti partecipo, però è un po' che lo fa in modo un po' così silenzioso. Come il suo nome, esoterico. Sì, sì, esatto. È il nome di una pianta. Ah, è il nome latino di una pianta. Sì, sì, sì, il nome bisogna di una pianta. Bisogna che studio che pianta è, così sì, molto può... particolare. Immagino. Ma invece salutiamo Cecilia che ci scrive, ci dice: grazie della fantastica compagnia durante questa mattinata a base di esercizi d'inglese. Allora, I nostri, sì, sì, infatti ricordo appunto anche le mie citazioni in inglese e soprattutto le tue citazioni perfetto. In inglese, che insomma magari hanno dato quel qualcosa in più, esatto. A dire, esempio negativo, così non si parla l'inglese, esatto, soprattutto nel mio caso, nel tuo dai, già va meglio, io dai, ci provo col francese, almeno ci provo un po' di più, anzi saluto Cecilia che sta ospitando un ragazzo francese a casa, quindi magari ci sarà l'occasione di riprendere un po' e rispolverare la lingua. Un po' di scambi culturali, 12-17 minuti, ormai siamo quasi ai saluti, facciamo un... riassunto dei minuti precedenti, buoni propositi del passato. Siamo riusciti a smettere di fumare, siamo riusciti. Vabbè, volevo essere positivo, okay. Incoraggiarti. Va bene. Siamo in radio, cosa bella, certo. Voglio dire. E poi cosa potremmo fare? Più sport? Potremmo fare molto più sport. Molto più sport. Infatti il mio buon proposito è trovare un equilibrio giusto a livello proprio di attività, perché io se ho una passione allora mi metto, sono anche lì dietro le ore, tipo mi piace la pallavolo, ci sto anche 5 ore, oppure niente, cioè non c'è una via di mezzo, una corsetta, no, oppure se non mi piace io sto tutto il giorno sul divano a fare i fatti miei. A fare le immagini per lo Special Twice. Esatto, esatto. Quello è un grande talento e non solo. Però per poter fare una corsetta assieme ci vuole anche lo stimolo di una buona canzone, di una buona colonna sonora. Josh Lynn Brown non è altro che un ragazzo. Questo brano si chiama così: Somebody Else A Guy. Lei è la grandissima voce, Josh Lynn Brown. We'll be right back. buoni propositi, anzi buono proposito, essere più ordinato. Se la scrivania è la rappresentazione della tua mente, immagina una scrivania vuota. Sì. Someone Else Guy, Jocelyn Brown, da questo disco assolutamente di incontro tra disco music ed elettronica fine anni 70, però con chiari rimandi al Philadelphia Soul. Questa è perfetta da essere mixata, proprio perché il tum e il cha sono il molto... tum tum cha. Sono nitidi, perfetti. Ascolta, tum tum cha, hai una richiesta. Allora, speciale sul giorno di Natale, la vera storia del giorno del Sol Invictus. Grazie comunque. Lo facciamo, va bene, va bene. Ci siamo, assolutamente. Anzi, faremo una selezione musicale a proposito di Soul, che vabbè, si sfonda la porta aperta con noi a questo punto. Ma chi è che ci manda queste richieste particolari? Penso sia sempre Andrea. Grande Andrea, grazie sì, sì, caro sì. Andrea. Almeno, non si è firmato, però ma sì, no, cioè, è la stessa casa. Persona che ha detto che cibo e cultura, la lasagna è docet. Lo quindi, sa, lasagna. Lasagna docet. Lasagna docet, assolutamente. Sì, ma sì, anche, sì, Andrea, Andrea. Ma anche tagliatelle, tortellini, cannelloni, insomma. Noi siamo, oddio, basta, basta, 12-23 minuti, non esageriamo. Evitiamo, se no il microfono qui davanti mi scompare. Anche perché stanno venendo sugli odori dalla cucina. Esatto, capito? Esatto. Che fra un po' raggiungeremo, chiaramente. Però voi restate sui 103.1, fra 5 minuti è il momento dell'informazione, è il momento del GR. Noi ovviamente torniamo. E come no, eh sì, dobbiamo torturarvi con i nostri buono propositi. Per cui se no, basta buono propositi. Magari ci sarà qualcosa di un po' più attuale. Un po' più attuale, sì. Ci proviamo a cambiare un po' il groove, e proviamo a fare qualcosa di più... sensibile al 2013 o comunque all'ultimo decennio. Un po' più vicino ai tempi nostri, insomma. Eh sì, c'è ancora spazio però per due chiacchiere, c'è ancora spazio per un altro brano, almeno per questi suoni, stili e visioni che stanno... Senti un po', senti voi. Mamma mia, è il momento di sulle mani! Infatti vogliamo ricordare... Si finisce così. Sì, esatto, sulle mani. No, vogliamo ricordare che il 7 dicembre saremo all'Agua, sì, live, quindi la vostra coppia di lunghi, se volete ballare, fare insomma una serata in compagnia della vostra coppia di lunghi, potete venire all'Agua il 7 in via Saragozza e divertirvi con noi. Eh sì, via Saragozza 63 in questo caso, sarà sabato prossimo, il 7 dicembre all'Agua, ci sarà una diretta dal vivo, lo Special Twice in trasferta. Sulle mani! Gli ultimi 5 minuti siamo maraglia dei livelli che non ci si affronta. Ma però sì, maragliamoci. Buoni propositi, essere più maragli per l'anno prossimo. No, sto scherzando. Per carità, ci mancherebbe altro. Anzi, di solito si inizia sì, perché il movimento del cool jazz è stato... No, di solito è il contrario. Tipo, l'anno prossimo voglio essere meno maraglio. Però insomma, anche perché poi dircelo da soli risulta anche un po' difficile. Dovrebbero essere gli altri a dirci cosa sì, siamo. Sì, però non, insomma, noi ci proviamo almeno. Sì. 26 minuti. Eh sì, adesso devono arrivare i saluti con l'ultimo brano che lanciamo in questo momento, un brano molto particolare, perché a parte sulle mani noi vogliamo affrontare le nuove realtà anche con tanta voce, con tanta così entusiasmo, soprattutto urlando. Allora ascoltiamoci questo pezzone e noi ci vediamo dopo. Eh sì, per i saluti. You know you make me wanna kick my heels up and throw my hands up and throw my head back and come on now. Come on now. Now wait a minute. Ed eccoci qua per i saluti, per congedarci dal nostro pubblico. Grazie a tutte le ascoltatrici, grazie a tutti gli ascoltatori. La puntata numero 8 di Special Twice volge al termine. Grazie Elisa. Grazie a te Willy e grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto e ascoltato anche oggi. Allora, l'appuntamento al prossimo venerdì. Buon weekend. Buon weekend. Appetito. Ciao a tutti. Ciao. You've been so good to me. You've been so good to me. You know you make me wanna shout. Lift my head up and shout. Throw my hands back and shout. Come on now, shout. Come on now, shout. Come on now, shout. Come on now, shout. Take it easy, shout. Take it easy, shout. Take it easy, take it easy, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit softer now, shout. A little bit louder.